Capitolo 9. Mr. Rushworth, che era sulla soglia, pronto ad accogliere la sua dama, diede con debita cortesia il benvenuto a tutti gli ospiti. In salotto furono ricevuti con grande cordialità da sua madre e Miss Bertram ebbe il piacere di ricevere da entrambi tutte le possibili attenzioni. Esauriti i convenevoli, per prima cosa si pensò al rinfresco. Furono spalancate l'una dopo l'altra le porte che immettevano in uno o due saloni intermedi e davano accesso alla sala da pranzo dove erano pronti cibi abbondanti e elegantemente presentati. Si chiacchierò molto, si mangiò molto e tutto si svolse nel migliore dei modi. Dopodiché venne preso in considerazione lo scopo principale della gita. Come preferiva Mr. Crawford, che mezzo sceglieva per visitare ed esaminare la tenuta? Mr. Rushworth propose un suo calessino a due posti, ma Mr. Crawford pensava che fosse preferibile una carrozza in grado di trasportare più di due persone, perché, disse, privarsi del desiderabile aiuto di altri occhi e di altri pareri poteva rivelarsi un vero inconveniente, una cosa persino peggiore della perdita di piacere che soffrirebbero gli esclusi dal giro. Mrs. Rushworth suggerì di prendere anche la berlina. Ma questa seconda proposta fu accolta poco favorevolmente dalle giovani signore che non dissero parola né accennarono un sorriso. La successiva offerta di visitare la casa, che alcune di loro non conoscevano ancora, ebbe miglior successo. A Miss Bertram faceva piacere che ne fosse messa in evidenza l'ampiezza e tutti furono contenti di avere qualcosa da fare. Perciò l'intera comitiva si alzò da tavola. E sotto la guida di Mrs. Rushworth fu accompagnata attraverso un susseguirsi di sale molto vaste, dal soffitto molto alto, dal pavimento lucidissimo, decorate con dovizia, secondo il gusto di mezzo secolo prima, con mobili di solido mogano, ricchi damaschi, marmi, dorature, legno scolpito, tutte cose belle purché prese separatamente. Vi era anche abbondanza di quadri, alcuni dei quali buoni. Ma in genere si trattava di ritratti di famiglia che ormai non significavano più nulla per nessuno all'infuori di Mrs. Rushworth, che si era impegnata a fondo per imprimersi nella memoria tutto quanto la governante era stata in grado di riferirle e ormai era quasi altrettanto qualificata a far da guida. Nella presente occasione si rivolgeva soprattutto a Miss Crawford e a Fanny. Non vi era possibile confronto nel modo in cui ciascuna prestava orecchio alle spiegazioni. Miss Crawford, che aveva già visitato una quantità di case grandiose senza provare il benché minimo interesse, si limitava ad ascoltare cortesemente, mentre Fanny, cui tutto riusciva nuovo e interessante, ascoltava con autentica partecipazione tutto quello che Mrs. Rushworth era in grado di riferirle sulla storia passata della famiglia, la sua ascesa e conseguente acquisto di importanza, le visite regali, le prove di fedeltà date ai sovrani. Provando un intenso piacere nell'integrare tutti quei particolari nella più vasta cornice della storia che ben conosceva e nel rievocare con l'immaginazione le scene del passato. La posizione in cui sorgeva la casa negava la possibilità di godere una vista panoramica dalle finestre e mentre Fanny ed alcune altre ospiti seguivano Mrs. Rushworth, Harry Crawford guardava appunto le finestre, scuotendo gravemente il capo. Ogni stanza sulla facciata ovest guardava al di là di un prato verso l'inizio del viale che si apriva appena fuori dalle alte cancellate di ferro. Dopo aver visitato molte vaste stanze, dalla destinazione imprecisata, utili solo all'incremento dell'imposta sulle finestre, e che probabilmente erano intese solo a dar lavoro supplementare alle cameriere, Mrs. Rushworth disse: "Ora passiamo alla cappella, dove, a dire il vero, sarebbe preferibile accedere dal piano di sopra per prenderne vista dalla galleria sovrastante, ma siccome siamo esclusivamente fra amici, vi farò entrare da questa parte, se mi vorrete scusare." Entrarono. Fanny aveva immaginato qualcosa di grandioso. Si trattava invece di una semplice sala rettangolare, spaziosa, adattata per le pratiche di devozione, senza nulla di caratteristico all'infuori di una sovrabbondanza di mogano e dei cuscini di velluto cremisi posati sull'orlo della balaustra della galleria superiore riservata alla famiglia. "Sono delusa", disse a mezzo voce Edmund. "Questa non corrisponde all'idea che mi facevo della cappella di un maniero. Qui non vi è nulla di solenne, nulla di malinconicamente poetico, nulla di grandioso. Non vi sono navate, né arcate, né iscrizioni, né stendardi. Dove sono, cugino, gli stendardi gonfiati dal vento notturno dei cieli? O una qualche iscrizione che ricordi un monarca scozzese dorme laggiù? Dimentichi, Fanny, che tutto questo è stato messo insieme in epoca relativamente recente, per un uso intimo, al contrario delle antiche cappelle dei castelli e dei monasteri. Qui l'ambiente è stato sistemato esclusivamente per le preghiere quotidiane della famiglia, i cui membri, suppongo, sono sepolti nella chiesa parrocchiale. È lì che devi cercare gli stendardi e gli stemmi. Sono stata sciocca a non pensare a tutto questo, ma mi sento delusa. Mrs. Rushworth riprese a spiegare. Questa cappella è stata adattata, quale la vedete, ai tempi di Giacomo II. Prima, per quanto ne so, i banchi erano solamente impiallacciati e vi sono buone ragioni per credere che la tappezzeria e i cuscini del pulpito e quelli dei sedili riservati ai membri della famiglia fossero di semplice panno color porpora. Ma questo particolare non è del tutto accertato. È una bella cappella e in passato veniva frequentata ogni mattina e ogni sera. Molti ricordano ancora che le preghiere erano lette dal cappellano della famiglia, ma l'ultimo, Mr. Rushworth, al quale è succeduto mio figlio, interruppe la tradizione. Ogni generazione fa i progressi che può, disse Miss Crawford a Edmund con un sorriso. Intanto Mrs. Rushworth si allontanò per andare a ripetere le sue spiegazioni a Mr. Crawford e Edmund, Fanny e Miss Crawford rimasero indietro, formando gruppo a sé. È un peccato, disse Fanny, che quella consuetudine sia stata interrotta. Era una salda tradizione del passato. In una cappella, in un cappellano privato, vi è qualcosa di talmente consono con un grande casato, con l'idea che ciò che esso dovrebbe rappresentare, un'intera famiglia che si riunisce regolarmente allo scopo di pregare. È bello. Bellissimo, proprio, disse ridendo Miss Crawford. Deve fare un gran bene all'anima del capofamiglia, costringere tutte le povere cameriere e tutti i poveri servitori a interrompere il lavoro o lo svago per venire a ripetere qui 2 volte al giorno le preghiere, mentre personalmente inventa per se stesso dei pretesti per starsene lontano. Oh, questa non è certamente l'idea che Fanny si fa delle riunioni di preghiera in famiglia, disse Edmund. Se il padrone o la padrona di casa non sono presenti, la consuetudine risulterà più dannosa che vantaggiosa. Ah, in ogni modo, in queste cose è più sicuro lasciare piena libertà alle persone. A ciascuno piace agire a modo proprio, scegliendo il tempo e il luogo della devozione. L'obbligo di presenza, la formalità della cerimonia, la costrizione, la durata obbligatoria, tutto questo messo insieme è pesante e non piace a nessuno. E se la buona gente che fu solita inginocchiarsi e sbadigliare in quella galleria avesse previsto il giorno in cui uomini e donne, svegliandosi col mal di capo, avrebbero potuto starsene a letto 10 minuti di più senza incorrere in riprovazioni, avrebbero trasalito di gioia e di invidia. Ma immaginate con quanta malavoglia le antiche belle dame dei Rushworth d'altri tempi si saranno avviate verso questa cappella. Le giovani Mrs. Eleanor o Mrs. Bridget, inamidate in apparente devozione, ma con la testa piena di tutt'altri pensieri, specialmente quando il povero cappellano non meritava di attirare lo sguardo. E immagino che in quei tempi i bravi pastori siano stati anche meno attraenti di quelli di oggigiorno. Per alcuni istanti gli altri due non replicarono. Fanny era arrossita e guardava Edmund, ma si sentiva troppo irritata per parlare. E a lui occorse un istante di riflessione prima di dire: la sua mente, che è tutta vivacità, non riesce a considerare seriamente nemmeno le cose più serie. Ci ha tracciato uno schizzo divertente. Chi conosce la natura umana, certo, non può dire che non sia veritiero. Noi tutti in certi momenti sperimentiamo quanto sia difficile fissare il pensiero come vorremmo, ma se lei suppone che in alcune persone ciò avvenga frequentemente e che così una naturale debolezza venga a trasformarsi per negligenza in abitudine, cosa di meglio ci si può aspettare dalla loro devozione quando si raccolgono in privato? Pensa che la mente alla quale si consente di distrarsi quando ci si trova in una cappella sarebbe più raccolta in un salottino? Sì, con ogni probabilità, e almeno per 2 motivi. Vi sarebbero meno sollecitazioni esteriori atte a sviarne l'attenzione, e questa d'altra parte non verrebbe messa alla prova troppo a lungo. Ma penso che la mente che non sa dominarsi nel primo caso troverà motivo di distrazione anche nel secondo. Inoltre, l'influenza del luogo e dell'esempio può spesso richiamare sentimenti migliori chi ha iniziato con cattiva volontà. Tuttavia, sono pronto ad ammettere che l'eccessiva lunghezza di una funzione può richiedere uno sforzo troppo grande alla mente. Sarebbe desiderabile che non fosse così. Ma ho lasciato Oxford da così poco tempo che ancora non ho dimenticato come possono essere le preghiere in cappella. Mentre si svolgeva questa conversazione e il resto della comitiva era sparpagliata nell'oratorio, Giulia attirò l'attenzione di Mr. Crawford su sua sorella, dicendo: "Guardi, Mr. Rushforth e Maria, ritti a fianco, proprio come se la cerimonia nuziale fosse sul punto di avere inizio. Non hanno una vera aria di circostanza?" Mr. Crawford annuì sorridendo e avvicinandosi a Maria disse in un tono di voce che lei sola poté udire: "Non mi fa piacere vedere Miss Bertram così vicina all'altare." Trasalendo, la giovane indietreggiò di un passo o due, ma subito si riprese e con un riso forzato gli chiese, a voce troppo alta, se era pronto ad accompagnare la sposa. "Ah, temo che se lo facessi avrei l'aria molto imbarazzata," fu la risposta, accompagnata da uno sguardo carico di sottintesi. Giulia, unendosi a loro in quel momento, spinse oltre lo scherzo. "Davvero è un gran peccato che la cosa non si faccia all'istante, se solo avessimo la dispensa necessaria, visto che siamo tutti riuniti qui e che niente al mondo potrebbe essere più intimo e piacevole." E continuò a parlare e a ridere con così poco ritegno da attirare l'attenzione di Mr. Rushworth e di sua madre e da esporre la sorella alle galanterie sussurrate del suo innamorato. Mentre Mrs. Rushworth, sorridente e dignitosa come si confaceva, diceva che quello sarebbe per lei un evento felicissimo in qualsiasi momento avesse avuto luogo. "Ah, se Edmund solo avesse già ricevuto l'ordinazione!" esclamò Giulia e correndo verso il punto dove gli era rimasto con Miss Crawford e con Fanny gli disse: "Mio caro Edmund, se tu fossi già stato ordinato, potresti celebrare il rito senza indugio. Che peccato che tu non sia ordinato. Mr. Rushworth e Maria sono belli e pronti." L'espressione di Miss Crawford, mentre Giulia parlava, avrebbe divertito un osservatore disinteressato. Era rimasta quasi senza fiato di fronte a quella inattesa rivelazione. A Fanny fece pena. Come deve sentirsi mortificata pensando a quanto ha detto appena poco fa, le venne in mente. "Ordinato," diceva intanto Miss Crawford, "ma come lei si destina alla carriera ecclesiastica?" "Sì, riceverò gli ordini subito dopo il ritorno di mio padre, probabilmente a Natale." Facendo appello a tutta la sua presenza di spirito e ricomponendosi, Miss Crawford disse semplicemente: "Ah, se lo avessi saputo prima avrei parlato del clero con maggior rispetto," e passò ad altro. Subito dopo, la cappella fu lasciata al silenzio e alla quiete che con ben poche interruzioni vi regnavano dall'inizio alla fine dell'anno. Miss Bertram, irritata contro la sorella, guidò il gruppo verso l'uscita, mentre tutti erano sotto l'impressione di essere rimasti lì più che a sufficienza. Ormai avevano visitato interamente il piano inferiore e Mrs. Rushworth, instancabile nell'incombenza che si era assunta, era pronta a dirigersi verso la scala principale per accompagnarli a vedere tutte le stanze del piano di sopra. Ma il figlio si frappose, esternando il dubbio che ormai non vi fosse tempo abbastanza per farlo, perché, disse con una di quelle ovvie enunciazioni che molte menti più sveglie della sua non sempre sanno evitare, se dedicheremo troppo tempo nel visitare la casa, non ce ne resterà abbastanza per fare quel che deve essere fatto fuori. Sono le 2 passate e alle 5 dobbiamo pranzare." Mrs. Rushworth si sottomise e il problema del come e con chi procedere alla visita della tenuta stava per essere più esaurientemente dibattuto e Mrs. Norris si preparava a decidere il modo di combinare i cavalli e le carrozze così da raggiungere il miglior risultato, quando il gruppo dei giovani, scorgendo una porta che, aperta e invitante, immetteva su una rampa di scale e da qui direttamente portava a un prato all'inglese bordato di cespugli e a tutte le delizie del giardino e del parco, come spinti da un anima impulso e dal concorde desiderio di aria e di libertà, si precipitò all'aperto. "Bene, che ne dite di fare una capatina da questa parte?" chiese Mrs. Rushworth, pronta a cogliere educatamente l'implicito suggerimento e seguendoli. "È qui che si trova la maggior varietà delle nostre piante, ci sono anche i fagiani di razza rara." Mi sto chiedendo, disse Mr. Crawford, guardandosi attorno, se non ci sia qualcosa da prendere in considerazione prima di andare oltre. Vedo dei muri che promettono molto bene. Che ne pensa di radunare il consiglio su questo prato, Mr. Rushworth? James, disse Mrs. Rushworth a suo figlio, penso che la zona boschiva debba essere nuova per tutti. Le signorine Bertram non ci sono mai state. Non vi furono obiezioni. Ma parve che per il momento nessuno fosse propenso ad allontanarsi da lì, seguendo un piano preordinato. Per incominciare, attratti dalle piante e dai fagiani, tutti si sparpagliarono all'intorno in gaia indipendenza. Mr. Crawford fu il primo a spostarsi verso l'estremità del prato per studiare le possibilità di ristrutturazione offerte da quella parte della casa. La distesa del prato, chiusa su due lati da un alto muro, continuava al di là del primo tratto sistemato con arte, con un campo per il gioco delle bocce e al di là di questo con una lunga terrazza limitata da una cancellata di ferro da cui spuntavano le cime degli alberi della zona boschiva immediatamente adiacente. Era un buono spunto per dare il via alle critiche. Mr. Crawford fu subito seguito a ruota da Miss Bertram e da Mr. Rushworth, e quando, dopo un certo tempo, la comitiva si frazionò, i tre furono lasciati in fitta conversazione sulla terrazza da Miss Crawford, Edmund e Fanny, che da parte loro sembravano essersi uniti per naturale affinità e che, dopo aver simpatizzato per un po' con le loro deplorazioni e difficoltà, li lasciarono per procedere oltre. Il terzo gruppo, formato da Mrs. Rushworth, Mrs. Norris e Julia, era rimasto molto indietro. Giulia, la cui buona stella non si trovava più allo zenith, si vide costretta dalle buone maniere a starsene a fianco di Mrs. Rushworth e a regolare il passo dei suoi piedini impazienti su quello lento di lei, mentre la zia, entrata in conversazione con la governante, uscita per dare il becchime ai fagiani, indugiava la retroguardia chiacchierando con lei a tutto spiano. La povera Giulia, unica fra i nove della comitiva a non essere completamente soddisfatta, era ormai costretta a una totale penitenza. Era quanto mai diversa dalla Giulia seduta a cassetta del calesse. L'educazione che le era stata impartita e che essa metteva in pratica per senso del dovere le vietava di sfuggire alla situazione che si era spontaneamente creata. Ma poiché mancava di vero autocontrollo, di un'appropriata considerazione di quanto è dovuto agli altri, nonché dell'arte di leggere chiaramente nel proprio cuore e di formarsi una retta nozione del giusto, delle cose che non le erano state insegnate, era, sotto l'apparenza di un contegno corretto, in preda all'avvilimento. Fa un caldo insopportabile, disse Miss Crawford, dopo che, fatto un giro sulla terrazza, si dirigevano per la seconda volta verso i battenti che a metà cancellata si aprivano sulla boscaglia. Qualcuno di noi è contrario a cercare un sito più confortevole? Ecco qui un bel boschetto, sempre che vi possiamo penetrare. Che bello se i battenti non fossero chiusi a chiave, ma naturalmente lo saranno, poiché in queste vaste tenute solo i giardinieri possono andare in giro a loro talento. Il cancello, invece, non era chiuso a chiave e tutti e tre si trovarono lietamente d'accordo nel varcarlo, lasciandosi alle spalle l'impietoso riverbero del sole battente. Un'imponente scalinata li condusse sull'orlo del bosco, che era stato piantato in modo da costituire un alberetto di circa 2 acri, ricco soprattutto di larici, di allori framisti a faggi, che, benché potati e raggruppati con eccessiva regolarità, offrivano in confronto col campo per il gioco delle bocce e con la terrazza, ombra fitta e penombra e angoli suggestivi. Tutti e tre si sentirono subito ristorati e per un certo tempo continuarono ad andare qua e là, ammirando. Dopo un breve intervallo di silenzio, Miss Crawford disse: «E così, lei si destina alla carriera ecclesiastica, Mr. Bertram? Apprenderlo è stato per me una vera sorpresa». «Una sorpresa? E perché mai? Era ovvio pensarmi destinato a una qualche professione, ed è facile vedere che non ho l'indole né dell'avvocato, né dell'uomo di mare, né del soldato». Verissimo, ma tant'è, non mi era venuto in mente. E poi, come lei ben sa, c'è sempre uno zio o un nonno pronti a lasciare un patrimonio in eredità al secondogenito. Lodevolissima consuetudine, disse Edmund, ma certo non universale. Io Faccio parte delle eccezioni e così stando le cose devo pensare a provvedere a me stesso. Ma perché ha scelto la Chiesa? Pensavo che questa soluzione toccasse all'ultimo nato solo quando vi sono altri fratelli prima di lui. Dunque lei pensa che la Chiesa non venga mai scelta per libera elezione? Ah, oh, mai è una parola di suono cupo, ma sì, se il mai colloquiale significa non frequentemente, lo penso. Perché cosa offre la carriera ecclesiastica? Agli uomini piace distinguersi e in qualsiasi altra professione ciò è possibile, ma non nella Chiesa. Un ecclesiastico socialmente non è niente. Spero che il niente colloquiale abbia le sue sfumature, come il mai. Un ecclesiastico non può primeggiare per pompa o per eleganza. Non tocca a lui capeggiare le masse o dare il tono alla moda, però non posso considerare un niente la professione che richiede di darsi carico di tutto quanto è di fondamentale importanza per l'uomo, sia come individuo che come collettività, sia nell'ambito del terreno che in quello dell'eterno, che è custode delle norme che regolano la religione e la morale e che insegnandole influenza il comportamento di quanti gli sono affidati. Chi rifletta su tutto ciò non può considerare niente una simile incombenza. E se l'uomo che la sceglie è un niente, vuol dire che trascura il proprio dovere, che rinnega l'importanza riconosciuta alla sua missione, che esce dall'ambito che gli spetta, tentando di apparire quale non dovrebbe essere. Lei assegna all'ecclesiastico più importanza di quanta si sia soliti attribuirgli o di quanta io sia capace di concepire. In società non si notano molti segni di questa importanza o di questa influenza, e come potrebbe essere diversamente quando il pastore si incontra così raramente di persona? Come possono ottenere tutto quello che lei dice due sermoni alla settimana, anche ammettendo che meritino di essere ascoltati o supponendo che il predicatore abbia il buon senso di preferire quelli di Blair ai propri? Governare la condotta o modellare il comportamento di una numerosa congregazione per il resto della settimana? È raro incontrare un ecclesiastico fuori dal suo pulpito. Lei parla di Londra, mentre io parlo del paese nel suo insieme. Oh, beh, immagino che la metropoli sia un campione abbastanza probante di tutto il resto. Spererei di no, se per il resto lei intende la proporzione di virtù e di vizio fra la capitale e tutto quanto il reame. Non cerchiamo i migliori esempi di comportamento morale nelle grandi città. Non è in esse che una persona rispettabile può fare il maggior bene, che l'influenza del clero può essere maggiormente sentita. Un bravo predicatore vi è seguito e ammirato, ma non è solo predicando che un buon ecclesiastico può rendersi utile nella propria parrocchia e nel proprio circondario. Quando parrocchia e circondario hanno un'estensione che permette agli abitanti di conoscerne l'intimo carattere, di osservarne i modi, cosa questa che a Londra è raramente possibile. Là, il clero si confonde nella folla di parrocchiani. Dalla maggior parte di essi i pastori sono conosciuti unicamente come predicatori e in quanto alla loro influenza sul comportamento generale, Miss Crawford non mi deve fraintendere pensando che io consideri gli ecclesiastici arbitri di buone maniere, maestri di raffinatezza e cortesia, gran cerimonieri nella vita sociale. I modi di cui parlo si potrebbero forse meglio definire col termine di condotta. Qual è il risultato di buoni principi? Insomma, come applicazione di quelle dottrine e di quelle regole che è loro dovere insegnare e raccomandare. Sono convinto che ovunque si può constatare che in linea di massima qual è il clero, tale è la nazione. È così, disse Fanny con gentile ardore. Ecco, esclamò Miss Crawford, lei ha già completamente convinto Miss Price. Vorrei poter convincere anche Miss Crawford. Oh, non credo che ci riuscirà mai, disse lei con un sorriso malizioso. Il sapere che lei intende ricevere gli ordini mi sorprende ora come prima. In realtà lei è adatto per fare qualcosa di meglio. Su, via, cambi decisione, non è troppo tardi, opti per il foro. Far legge? E me lo consiglia con la stessa disinvoltura con cui mi ha proposto di entrare in quel bosco. E adesso lei lo userà come metafora della legge dicendo che questa tra le due selve è la peggiore. Ma la prevengo, ricordi che l'ho detto io per prima. Non occorre che si affretti quando vuole semplicemente impedirmi di fare un brillante gioco di parole, visto che in me non vi è la benché minima tendenza alle uscite spiritose. Sono un tipo molto pragmatico, dall'aperto parlare, e sono capace di tentennare sull'orlo di una replica brillante per mezz'ora senza darle il via. Seguì una pausa, durante la quale ciascuno rimase pensoso. Fu Fanny a interromperla per prima, dicendo: "Strano che mi senta stanca solo per avere passeggiato in questo ameno boschetto, ma appena incontreremo una panchina vorrei sedermi un po', se non vi dispiace." "Mia cara Fanny," esclamò Edmund, offrendole immediatamente il braccio. "Come sono stato sconsiderato. Spero che tu non ti sia affaticata troppo." E poi, volgendosi a Miss Crawford: "Forse anche l'altra mia compagna vorrà farmi l'onore di accettare il mio braccio." "Grazie, non sono affatto stanca." Ma tuttavia lo prese mentre parlava e la soddisfazione che gli procurò quel gesto, sperimentare per la prima volta quel diretto contatto, gli fecero dimenticare un po' Fanny. "Ma lei quasi non mi sfiora," disse, "non mi permette di sentirmi utile. Che differenza tra il peso del braccio di donna e quello di un uomo? A Oxford mi ero abituato a sentire qualche compagno appoggiarsi a me lungo il percorso di tutta una via, e lei è solo una farfalla in confronto." "Davvero non sono stanca, del che quasi mi meraviglio. Perché dobbiamo aver camminato almeno per un miglio in questo bosco? Non lo pensa anche lei?" "No, nemmeno per mezzo miglio," fu la decisa risposta di Edmund, che non era ancora abbastanza innamorato da misurare le distanze o da calcolare il tempo con femminile approssimazione. "Oh, lei non tiene conto di quanto abbiamo vagato qua e là. Abbiamo seguito un percorso così tortuoso, e il bosco stesso da un capo all'altro deve estendersi per un buon mezzo miglio, perché da quando abbiamo lasciato il largo sentiero d'accesso non ne abbiamo ancora scorto la fine." "Ma se lei ben ricorda, prima di lasciare quel largo sentiero abbiamo visto perfettamente dove finisce il bosco e la cancellata di ferro che lo chiude all'altra estremità. Da un capo all'altro non può misurare più di un furlong." "Oh, non so niente dei suoi furlong, ma sono sicura che è un bosco molto, molto profondo e che da quando vi siamo entrati non abbiamo fatto altro che girare e rigirare. Perciò, quando dico che abbiamo percorso un miglio, sono certa di fare una giusta stima." "Siamo qui esattamente da un quarto d'ora," disse Edmund, tirando fuori l'orologio. "Pensa che marciamo a 4 miglia all'ora?" "Oh, non mi tiri fuori il suo orologio adesso. Gli orologi sono sempre avanti o indietro. Non posso essere contestata in base a un orologio." Fecero ancora pochi passi e si trovarono in fondo a quello stesso sentiero cui avevano accennato. E, un po' discosta, bene ombreggiata e riparata, scorsero una comoda panchina orientata verso il parco, che si estendeva al di là di un fosso di cinta. Tutti e tre si misero a sedere. "Temo che tu sia sfinita, Fanny," disse Edmund, osservando la cugina. "Perché non lo hai detto prima? Sarà davvero una brutta giornata di svago per te se ti affatichi a questo modo. Ogni genere di sforzo fisico la stanca così presto, Miss Crawford, eccetto il cavalcare." "Ma allora lei si è comportato in modo davvero abominevole, permettendomi di monopolizzare il cavallo come ho fatto per un'intera settimana. Mi vergogno doppiamente, per lei e di me stessa, ma la cosa non si ripeterà." "La sua premura e il suo interessamento mi rendono ancora più consapevole della mia negligenza. Con lei Fanny è più al sicuro che con me." "Che oggi debba sentirsi stanca comunque non mi sorprende, perché non vi è niente che nel compimento dei doveri di cortesia fatichi più di quanto ci è stato imposto questa mattina. Visitare una grande casa, andando qua e là, di stanza in stanza, essere tutt'occhi e tutta attenzione, udire parole che non si recepiscono, ammirare cose che non interessano. Si tratta, per generale riconoscimento, di quanto vi è di più fastidioso al mondo. E Miss Price ha sperimentato come ciò sia vero, anche senza rendersene conto tutta prima." "Oh, mi sentirò presto riposata," disse Fanny. "Starsene seduti all'ombra in una bella giornata e guardare il verde circostante costituisce il più perfetto dei ristori." Ma dopo essere rimasta seduta per un po', Miss Crawford fu di nuovo in piedi. "Devo muovermi," disse. "Il riposo mi stanca. Ho guardato la prospettiva al di là del fosso fino a non poterne più. Devo andare a vedere lo stesso panorama attraverso quel cancello di ferro, anche se non avrò un punto di vista buono come da qui." Edmund lasciò a sua volta la panchina. "Ora, Miss Crawford, se avrà la compiacenza di risalire con lo sguardo lungo il sentiero, si convincerà che non può avere la lunghezza di un mezzo miglio, e nemmeno della metà della metà." "È una distanza immensa," si ostinò lei. "Posso rendermene conto con un'occhiata." Edmund addusse altri argomenti ragionevoli, ma invano. Lei rifiutò di calcolare, non volle confrontare e continuò a sorridere, ostinandosi. Una controversia della massima importanza non avrebbe potuto impegnarli più a fondo e così continuarono a dialogare con mutua soddisfazione. Alla fine si trovarono d'accordo sull'opportunità di fare il tentativo di accertare meglio l'estensione del bosco, ripercorrendone una parte. Muovendo da dove si trovavano, vi era un verde sentiero che correva lungo il fosso di cinta, volevano raggiungere l'orlo del bosco e poi, forse, deviare un poco in altra direzione, se ciò fosse tornato utile a definire la questione. Sarebbero ritornati di lì a pochi minuti. Fanny disse che ormai si era riposata abbastanza e avrebbe voluto muoversi anche lei, ma non glielo permisero. Edmund la pregò con tanta insistenza di restare dov'era che lei non seppe resistere e così rimase sulla panchina a pensare con piacere alla sollecitudine del cugino e a rimpiangere di non essere più forte. Li seguì con lo sguardo finché non ebbero svoltato l'angolo e tese l'orecchio al suono dei loro passi e delle loro voci, fino a quando l'eco se ne spense.